Sicuramente c'è il fatto che la nostra legge elettorale è diversa da quella, per esempio, usata in Abruzzo o in altre regioni. Non solo, abbiamo la doppia preferenza di genere, che è stata comunque una conquista, soprattutto riguardo al mondo delle donne, insomma, che così hanno avuto la possibilità di essere candidate in numero pari agli uomini, ma questo comporta anche una certa difficoltà poi nello spoglio, perché ci sono ovviamente due preferenze per ogni votante, sì, e quindi vanno conteggiate in una maniera particolare. E questo rallenta tutto. Ma venendo invece appunto ai risultati parziali, adesso siamo più o meno a un terzo delle sezioni, quello che ti volevo chiedere è: vi aspettavate quella che si profila come la vittoria del centrodestra? Allora, ovviamente, soprattutto una persona come me che era candidata aveva un determinato ottimismo. Poi quando giri la Sardegna, in questo caso vabbè, ho girato il mio collegio, quello di Cagliari, e fai campagna elettorale, incontri quelli della tua parte, quindi in qualche modo hai un certo ottimismo, sei drogato un po' da questo, che falsa un po' tutto. Massimo Sedda è un sindaco molto forte, un sindaco che è piaciuto tantissimo, che è stato infatti eletto anche la seconda volta, il suo secondo mandato. Ha fatto tantissime cose, chi conosce Cagliari oggi e la conosceva 10 anni fa quasi non la riconosce, perché la città è migliorata tantissimo. Quindi ovviamente avevamo dalla nostra anche questo, il fatto che avevamo un candidato molto forte che in tutta la Sardegna era considerato vincente. Lui infatti sta ottenendo tantissimo, un risultato molto buono. Il problema sono le liste sono deboli, lo sono sempre state le liste di sinistra in Sardegna, mentre la destra ha delle liste fortissime che a questo punto hanno trainato anche Solinas, anche se, come è stato definito un po' da tutti gli osservatori, è stato il candidato invisibile, proprio perché lui non ha fatto campagna elettorale, l'ha fatta esclusivamente Salvini, ma questo sembra non aver comunque ostacolato la maggior parte dei sardi nel votarlo, che hanno preferito comunque votare lui. In verità, se andiamo a fare un'analisi del voto, se si guardano le preferenze, la maggior parte delle persone ha messo delle X sulle liste, non ha messo X sul candidato presidente. Ovviamente però la legge ti dice anche che quella preferenza va in automatico anche al candidato presidente, quindi e questo è stato il problema, mentre Massimo Sedda ha una marea di preferenze singole sulla sua persona, però lo stacco c'è. Adesso, come dicevi tu, al 30% abbiamo un 14 punti di differenza, quindi non è neanche più un testa a testa. La Sardegna, come tutta l'Italia, sta pagando questa ondata di odio, di razzismo, di omofobia, di misoginia, e io sono molto chiara in questo. Hanno vinto le forze che hanno puntato sull'odio, e la cosa ridicola è che anche in Sardegna a un certo punto si è venuta a fare campagna elettorale prendendoci in giro, mostrando addirittura i simboli nostri come le felpe con i quattro mori, se penso sempre al leader della Lega, quindi anche, diciamo, scimmiottando determinate tradizioni nostre in maniera quasi prendendoci proprio in giro. Ecco, nonostante tutto loro sono riusciti a ottenere queste preferenze perché hanno fatto una campagna elettorale sui migranti, ma noi non abbiamo immigrati in Sardegna, i nostri immigrati sono il 3% della popolazione, ma in questi immigrati ci sono anche le badanti, ci sono anche tutti i militari che noi abbiamo nelle varie dislocati nelle varie, diciamo, nelle basi, quindi stiamo parlando proprio dell'immigrato, quello che fa paura, l'immigrato nero, brutto e cattivo, insomma, quello che ci vuole far vedere come il pericolo. Salvini è veramente una quantità irrisoria, quindi addirittura le persone hanno avuto le visioni, proprio nel senso che si sono immaginate di essere proprio circondate da questo nemico. È una cosa molto triste. Io posso dire che, vedendo questi risultati, vedendo che la Lega è il 10% in Sardegna, cioè, dopo tutto quello che c'è stato detto dalla Lega in questi decenni, penso che sia che alla fine quello che emerge è il fallimento della scuola pubblica, cioè il fallimento dell'istruzione proprio della scuola dell'obbligo, cioè la gente è completamente incapace di comprendere e capire i meccanismi politici, di fare un'analisi, ma segue, come in questo caso posso fare una citazione, le pecore, il primo che urla più forte. È una cosa veramente disgustosa. Sono molto forte in questo intervento, me ne rendo conto, ma è assolutamente così. Cioè, a destra non si è parlato di programmi, si è parlato soltanto del nemico, come negli anni 30 si parlava degli ebrei. Ecco. Questo è quello che è successo in Sardegna. I sardi purtroppo ci sono cascati. Però appunto tu, come dire, immagino poi avendo il polso della situazione, essendo sarda e stando lì, vedi in quel 12-13% della Lega una quota molto alta, che però è inferiore ad esempio rispetto a quella che abbiamo visto in Abruzzo. Cerco di vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Sì, però sì, è andata molto bene per esempio la Fratelli d'Italia col 6%, se sta andando molto bene, non possiamo parlare ovviamente al passato perché dovete anche immaginare che siamo al 30% dello spoglio, certo, quindi sono dati che possono comunque essere anche, si possono modificare. Quindi stiamo parlando comunque anche di una forza di estrema destra come quella della Meloni che è andata molto bene, ha fatto la campagna elettorale ugualmente su quello. Ovviamente è andata bene perché qui Fratelli d'Italia era già presente prima, cioè anche le scorse elezioni, nel senso che la Lega è veramente un outsider, insomma, come tra l'altro sono stati i grillini che è la prima volta che competono a livello regionale, nel 2014 non c'erano stati. Quindi per me è un dato enorme in Sardegna il 14%, cerca di capirmi, cioè è proprio una questione, certo, che stiamo parlando della Sardegna, non stiamo parlando della Lombardia. Stiamo parlando di un candidato, questo è un lapsus freudiano, un ministro che ci definiva pastori in senso dispregiativo, cioè ci sono tutti i suoi post prima di trasformare la Lega in Lega e non Lega Nord, lui parlava dei napoletani male ma anche dei sardi, quindi questa è la cosa che proprio ferisce dal punto di vista dell'orgoglio anche di una terra che comunque è una terra con una determinata tradizione. Poi è andato molto bene il Partito Sardo d'Azione, che è il partito che si è praticamente proprio venduto alla Lega con il suo candidato Solinas, che è poi il candidato presidente, e che ovviamente essendo la lista del presidente ha preso l'8%, quindi tutti questi partiti che hanno fatto tutti campagna elettorale, come ho detto, puntando sull'odio, non sui programmi, non c'è nessun programma, non si capisce neanche cosa vogliono fare. L'unica cosa che si è sentita dire è stata quella da Berlusconi, che vogliono ricostruire nelle coste. Ecco, voglio dire, ai sardi questa cosa fa piacere e noi ne prendiamo atto.